Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Parla del mondo del ciclismo giovanile e della pesca il romanzo Esche Vive, scritto da Fabio Genovesi e pubblicato da Mondadori. È ambientato nella provincia toscana. Il protagonista, Fiorenzo, è un ragazzo che ama appunto la pesca e che ha perso una mano. Così lo descrive l'autore. Fiorenzo è un ragazzo che sta per finire il liceo, è all'ultimo anno, alla maturità davanti a sé. E però è un ragazzo speciale da un certo punto di vista, perché a 14 anni ha avuto la sfortuna di farsi saltare una mano con un petardo, tentando di pescare i pesci con le bombe. Però non è né un perdente né un arreso, è uno che, proprio perché una cosa che mi ha fatto venire voglia di raccontare una persona come lui è che secondo me c'è un sacco di persone in giro che hanno tutto, però al tempo stesso c'è sempre qualcosa che manca a tutti noi, no? Non sai cos'è, ti manca qualcosa, vorresti, è l'insoddisfazione continua, no? Che è un po' lui lo sa cosa gli manca una mano, no? E al tempo stesso decide di vivere come se non ci fosse nessun problema. Lui vive vicino a Pisa, a Pontedera ci sono dei centri che studiano all'avanguardia mondiale la robotica delle mani per sostituire gli arti. Lui non se ne parla nel romanzo, lui vive bene così, ha deciso che impara a fare le cose così e non c'è bisogno di cercare dei surrogati, insomma. Fiorenzo poi interagisce con altri due personaggi, innanzitutto con Tiziana. Chi è Tiziana? Tiziana è la, direi, personaggio femminile, ma è la donna del romanzo, una donna più matura, comunque dai, quella metà dei 30, insomma. La cosa di cui sono convinto è che le donne sono la parte migliore della nostra nazione, questo non c'è dubbio, però quello che mi colpisce sempre è che le donne che hanno più valori, che valgono di più, che hanno più capacità, sono sempre quelle che si buttano un po' giù invece nella vita, no? Invece quelle più spavalde sono quelle che poi alla fine sotto c'hanno poco. E Tiziana è una così, ha un sacco di valori, però al tempo stesso è bravissima nel giocarsi contro, no? Quindi dice, a un certo punto del romanzo imparerà che si può cominciare a vincere, soprattutto se si smette di farsi del male da soli. Tiziana è una ragazza che ha studiato molto, è stata anche all'estero, però poi decide di ritornare a casa in Toscana. Perché sì. Torna? Lì per lì è chiaro il motivo. Lei torna perché ha studiato all'estero, però è il suo paese che l'ha fatta studiare, la sua famiglia, la popolazione. Lei sente cosa manca nel suo paese e dice, è inutile che io vada a lavorare a Losanna, vada a lavorare a Londra. C'è bisogno di me nel mio paese, che mi ha fatto arrivare fino qui, e io torno per far del bene a casa mia. Però lei nel frattempo ha perduto tutte le cognizioni di cosa fosse casa sua, e appena torna si rende conto che la situazione è molto diversa da quella che pensava. E poi c'è il terzo personaggio, Mirko. Sì, Mirko è il campioncino, è un ragazzino di 14-15 anni che viene prelevato dal Molise, dove la cultura ciclistica non è molto avanti, e viene portato in Toscana. La Toscana e il Veneto sono le due patrie del ciclismo giovanile. E quindi lui è questo ragazzino che ha la condanna di essere bravissimo, ha talenti ovunque. E il suo sogno invece sarebbe di essere una persona normale, anche quando gioca, non vorrebbe essere il capo, vorrebbe essere un soldato se si gioca alla guerra, non voglio essere il generale, non voglio essere uno tranquillo. Dice che alla fine della giornata se ne sta tranquillo in trincea, scrive una lettera alla mamma, alla fidanzata, invece sono condannato a essere un capitano, infatti nessuno gliela fa passare liscia, insomma, questa cosa. In che modo interagiscono questi tre personaggi? Il modo che secondo me è quello più vero, cioè quello casuale. Il paese è piccolo e... il padre di Fiorenzo è l'allenatore della squadra ciclistica locale e ovviamente prende il piccolo Mirko dal Molise e se lo porta in casa. Il rapporto di Fiorenzo col padre è conflittuale già prima, moltissimo, perché Fiorenzo è pure orfano di madre. Il padre, una volta che Fiorenzo ha perso la mano, si disinteressa di lui, perché comunque il suo sogno era avere un piccolo campione. Adesso ce l'ha il piccolo campione, ma è un altro, e quindi parte un odio, partono due fratellastri strani soprattutto Fiorenzo detesta Mirko senza conoscerlo. Però Mirko va a lezione, a ripetizione da Tiziana, e quindi il tutto poi li unirà in questo, si incontreranno lì, all'inizio con la volontà di farsi molto male, e poi le cose andranno in maniera non del tutto prevedibile, ecco, per loro. In questo romanzo si parla un po' del mondo del ciclismo giovanile, l'abbiamo detto, anche del mondo della pesca, da qui questo titolo Esche Vive. Sì, la pesca è una mia passione, fin da piccolo, proprio morbosa. E però nella narrativa italiana, secondo me, non è mai presente, mentre è sdoganata molto nella letteratura americana, inglese, poi Carver, Hemingway. Però da noi la pesca è sempre stata qualcosa di più proletario. Spesso leggo libri italiani, senza voler far polemica, che però parlano di cose molto specifiche, molto intellettuali, no? Con tutto il portato del termine. E invece ci sono delle cose molto più semplici, ma molto più reali poi, che ti mettono davanti a te stesso, come la pesca, e non ci pensa mai nessuno. La pesca è la meraviglia, la voglia di vedere che ci sono delle cose, e sai che sotto quell'acqua c'è qualcosa e non sai cos'è, e pensi che se ti comporterai bene, se farai tutto bene, scoprirai cosa vive là sotto. E questo era Fabio Genovesi, autore di Esche Vive. Secondo romanzo del giorno è Ho molto tempo dopo di te, scritto da Alessandro Fullin, pubblicato da Kowalski. È il primo romanzo di Fullin, noto al grande pubblico per le sue apparizioni a Zelig come professoressa di Tuscolano. Protagonista del romanzo è la giovane Arida, come ci racconta l'autore. Arida è una fanciulla così un po' inesperta, un blocco di Creta che deve essere forgiato ancora, e nel corso del romanzo verrà forgiata da uomini e ma soprattutto da donne, soprattutto perché, da una zia zio. Sì, sì, perché ci sono il romanzo ha una serie di personaggi femminili, non di queste donne, non tutte sono biologiche, alcune sono biologiche e altre non biologiche, però c'è un'idea del transessuale completamente diversa da quella delle cronache a cui siamo in Italia abituati. E cioè che idea? Beh, non è più il transessuale legato alla prostituzione, ad esempio, è un transessuale assolutamente che vive un suo mondo fantastico. Cioè, ad esempio, c'è questa zia che si chiama Atlantide, che è una donna religiosissima, che fa 3 messe al giorno, che raccoglie le offerte dei fedeli, poi è povera e quindi anche le ruba, quindi ha un rapporto molto dinamico con il suo credo religioso. Però ho voluto inventarmi delle categorie sessuali e sociali un po' nuove, come in realtà sta succedendo. Dove è ambientato questo romanzo? Il romanzo è ambientato in Centro America, dove io non sono mai stato, e spero di vendere tante copie così ci vado, perché è un viaggio che costa un po'. Allora, perché hai deciso di ambientare? Quando uno dice, ma perché scrivi, no? Qual è la ragione profonda per cui scrivi? Il romanzo prima l'ho scritto perché avevo bisogno delle piastrelle del bagno. E per questa volta per andare in Centro America? Vorrei fare questo viaggio, vorrei andare a vedere il Centro America. Queste, naturalmente, essendo che io non c'ero mai stato, sono stato un po' un Salgari, mi sono inventato tutto. Del resto Salgari, io e Salgari abbiamo... è uno scrittore che io adoro, è quello che mi leggeva il mio papà quando ero piccolo. Poi quest'anno è il centenario, quindi insomma no. Sei anche... Sì, sì, sì, sì, poi ha inventato delle cose stupende, non so, la figlia del corsaro nero che si chiama Yolanda. Io penso che se ti chiami Yolanda puoi affrontare qualsiasi cosa nella vita, è un nome talmente surreale. La Littizzetta avrebbe qualcosa da ridire. Vero. Allora, parliamo un pochino di questa Arida, non sveliamo troppo della trama, anche se non è un giallo, però non è sempre bello insomma svelare tutto. Che cosa accade a questa Arida? Beh, questa Arida è un romanzo un po' di formazione, nel senso che Arida è questa giovane fanciulla che perde la madre e viene chiusa in un collegio, e finalmente a 18 anni esce fuori da questa scuola assolutamente, insomma, che non l'ha formata, che semplicemente l'ha accompagnata in un primo pezzo della sua vita un po' inutile, e incontra questo personaggio molto particolare, che è questo zio, che è diventata una zia e si chiama Zia Atlantide, e da lì comincia questa sua avventura che la porterà a essere assunta in questo istituto della canzone nazionale, dove c'è molta musica nel romanzo. E la cosa un po' divertente è che io, che sono sempre stato un inventore di linguaggi, anche il tuscolano avevo inventato una lingua, anche in questo ho inventato una lingua, cioè ho usato delle parole spagnole e legandole con il mio dialetto d'origine, cioè il triestino, che non è conosciuto in Italia, per cui il lettore italiano mediamente legge queste cose e dice, ma che strano questo spagnolo, non mi sembra uno spagnolo castigliano. Ho molto tempo dopo di te, quanto c'è della tua vena comica e ironica in questo romanzo? Beh, c'è molto, però uno ad esempio pensa, quando faccio un po', chiedo, ma cosa ti fa pensare ho molto tempo dopo di te? Tutti pensano a una storia d'amore. Anch'io l'ho pensato. E invece la morte. È molto più drammatico. Ho molto tempo dopo di te e lo spazio, cioè il tempo che abbiamo dopo la morte della persona che abbiamo amato, quindi è molto drammatico. Quindi in realtà è un romanzo molto comico e molto divertente, e invece assolutamente drammatico anche. Ha queste, è un po' sorprendente se uno dice: ah, compro un libro di Alessandro Fulin, sarà molto solo comico. E invece poi gli amici mi dicono: ma è così commovente in certi momenti. Ed è vero. E questo era Alessandro Fullin, autore di Ho molto tempo dopo di te. Anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate anche su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.